la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, eccoci tornati dopo stamattina per chi ci ascolta anche ad Attentino 2 alle 8:15 con Alessandro Milan. Siamo in diretta adesso alle 16:31 primi in questo lunedì 7 di dicembre, Sant'Ambrogio, dagli studi Milano di Radio 24. Vado subito al punto e vi ricordo il numero di telefono se volete intervenire: 800 24 00 24, 349 238 6666 per gli sms. È un punto al quale io mi avvicino con circospezione e delicatezza, vi dico subito perché. Dopo avervi detto di che si parla, è una puntata dedicata al dibattito che da qualche giorno è decollato con toni anche abbastanza roventi, infuocati, in relazione ad un no, a un'obiezione contraria che è venuta da una parte, diciamo così, di intellettuali e donne impegnate nella società, che si riconoscono in Se non ora quando Factory, Cristina Comencini e altre, che hanno detto la gestazione per altre, insomma formula che brutalmente viene giornalisticamente sintetizzata nell'espressione utero in affitto, no. No, perché per motivi diversi al no che su questo tema hanno i cattolici, ma no in nome della tutela e dell'interesse della donna. Ecco, su questo no è partito un grande dibattito a sinistra, nel movimento femminista, ma in generale direi, e io vi dico che mi avvicino a questo tema con un grande interesse, come sempre nelle questioni bioetiche. Ve lo ricordo, ma da anni lo sapete che mi sono impegnato per la modifica della legge 40, non mi è mai piaciuta quella legge e ho sempre sottolineato che la Corte Costituzionale, che ne ha smontato pezzo dopo pezzo moltissimi pezzi fondamentali, secondo me aveva ragione. Detto questo, questo tema in particolare, e cioè la gestazione per altri, è un tema sul quale la mia opinione, mi rendo conto, minoritaria nel genere maschile, è che sia un tema sul quale l'opinione delle donne, sbaglierò io, lo so che non bisogna fare differenze di genere, però per la mia sensibilità particolare, forse sbagliata, conta più e viene prima di quella dei maschi, e io la penso così. E quindi questo dibattito, siccome è non solo nel mondo femminile, ma insomma è partito e ha suscitato reazioni nel mondo di chi è impegnato nella società civile al femminile e tra donne, mi ha molto, devo dire, preso. Non conta quel che pensi io, ma abbiamo due ospiti alle quali abbiamo chiesto e scelto di esprimere le loro opinioni, che sono diverse, su questo tema che, come tutti i temi che riguardano la bioetica, la difficoltà per la legge di dover poi calare in categorie generali in termini di diritti o facoltà, dei problemi che sono rappresentati inevitabilmente dalle frontiere della scienza da una parte, dall'evoluzione del costume, della concezione del diritto, della coppia, del diritto alla genitorialità e così via, quindi problemi molto delicati che sono quelli che più dividono la società moderna, dividono anche nel nostro paese, lo abbiamo visto la legge 40. Ricordo a tutti che nel nostro paese il cosiddetto utero in affitto è proibito dalla legge, altrove no, e quindi naturalmente questo genera i consueti, perdonatemi, fenomeni di turismo sanitario per le coppie che vogliono avere figli, non possono avere figli e quindi ricorrono a questo strumento. Allora, per parlarne abbiamo invitato una bioticista, scrittrice che collabora anche giornalisticamente con l'Internazionale, Chiara Lalli, grazie di essere con noi questo pomeriggio. Grazie a voi. E la professoressa Emma Fattorini, insegna storia contemporanea all'Università La Sapienza di Roma ed è anche senatrice del PD. Buon pomeriggio e grazie professoressa. Buongiorno. Allora, Chiara Lalli, lei è tra quelle che hanno detto no a chi dice no, cioè no a chi ha detto no insieme a Cristina Comencini e Sono ora quando Factory. Perché? Ma soprattutto perché non mi hanno convinto le argomentazioni. Io ho cercato di fare un'analisi delle ragioni che sono state offerte per sostenere il divieto, anzi la richiesta di divieto universale, no? Quindi di vietare questa possibilità, questa tecnica in tutto il mondo. Mentre poi prima l'ascoltavo, insomma, fare un riferimento alla legge 40, mi veniva in mente che quando è nata la prima bambina nel 1978, grazie alle tecniche Louise Brown, sembrava che stesse per venire sul mondo. Sì. Quindi molte di quelle argomentazioni che oggi ritroviamo sulla maternità surrogata, gestazione per altri, così come in tante altre tecniche, se ci spostiamo nel tempo le ritroviamo intatte rispetto a delle possibilità tecniche che oggi ci sembrano meno immorali, meno sconvolgenti, perché c'è anche una questione di avere familiarità poi con quelle tecniche. Non è da molto tempo che si può fare qualcosa del genere, non è da molto tempo che la tecnologia ci ha dato la possibilità di rimediare a delle impossibilità fisiche, no? Sì. E questo vale anche per la legge 40 e per le altre tecniche. È ovvio che in questo scenario, in questo dominio, la situazione si complica perché spesso si mischiano un sacco di argomenti. Il più confuso di argomento, o il più diffuso, mi verrebbe anche da dire, è non distinguere la possibilità che una donna libera scelga di fare qualcosa del genere, anche se noi non siamo d'accordo, anche se noi non lo faremmo mai. Non è questo il punto. Il punto è chiederci se la libertà conta più della coercizione legale. E se diamo una risposta positiva, dobbiamo trovare delle ragioni molto forti per vietare. E il fatto che si neghi che una donna possa scegliere liberamente è quello che poi viene spesso descritto come si abusa delle donne, le donne povere, si parla sempre dell'India e della Thailandia, è giustissimo. Io credo che questo, per esempio, è un terreno su cui potremmo essere tutti d'accordo. La interrompo solo un secondo per rendere più chiaro a chi ci ascolta. Si parla appunto di Ucraina e di Thailandia, cioè si parla con raccapriccio ed è uno dei motivi ricorrenti per chi dice no, perché si sostiene, in quei casi avendo evidenza anche di ragione, guardate che consentire significa dare il via libera a aree del mondo a bassissimo reddito, nel quale poi la proclività, la disponibilità alla gestazione per altri viene esclusivamente dal corrispettivo in denaro, anzi si creano poi vere e proprie forme di sfruttamento di reti organizzative di donne che sono volte a quel punto per denaro a fare le fattrici. Spiegato bene, sì. No? Perché sennò non sì. È detto che tutti capiscono. Certo, sì, e peraltro spesso in tante altre situazioni quello che è successo è che la regolamentazione ha risolto i problemi di abuso e sfruttamento, non il divieto. Il divieto è una risposta più semplice, perché dire no, non si fa nulla, è più semplice in qualche modo, però non è risolutivo. E anzi, a volte è appunto ingiusto, perché, come dicevo prima, se io volessi scegliere, per esempio, di portare avanti la gravidanza per qualcun altro, qualcuno deve vietarmelo. Forse potremmo anche cominciare da questa domanda, perché, come dicevo prima, sullo sfruttamento, l'abuso, siamo tutti d'accordo, sì. Quindi forse non perdiamo neanche tempo a discuterne, ma possiamo eliminare anche la possibilità teorica che qualcuna lo scelga? Questo succede e alcune di queste donne hanno raccontato le loro storie in Canada, per esempio, in California, o succede dove anche è possibile in Gran Bretagna per ragioni sanitarie e in altri paesi dove si è tentato e si sta cercando di regolamentare. Quindi la scelta è stata, non ci chiudiamo dietro un no rassicurante anche un po' paternalistico, perché poi io credo che avere la pretesa di dire no, tutte le donne in assoluto non farebbero una scelta del genere, e anzi è una cosa che le farebbe soffrire, è insomma un'affermazione paternalistica. Se siamo svegli e non sceme per poter decidere cosa fare del nostro corpo, e questo è la stessa premessa che c'è sull'aborto, sull'interruzione volontaria di gravidanza, su come curarsi, se ricorrere alle tecniche, se la premessa è la libertà e che davvero io posso scegliere cosa fare del mio corpo, la risposta diventa un po' più complicata, che no, non puoi farlo perché te lo dico io. Perché qualcuno dovrebbe vietare a me, che sono libera, autonoma, sono adulta, in grado di intendere di volere, non ho particolari necessità economiche, nel senso che non ho bisogno di fare questa cosa per mangiare, per sopravvivere. Ecco, se io volessi fare una cosa così, quali sono le risposte contro? Perché si dovrebbe condannare? Allora, intanto la fermo qui per vedere le obiezioni e invece chi sostiene il no con Emma Fattorini. Poi tocchiamo altri aspetti, perché lei ha accennato a questo che è uno degli argomenti della polemica, cioè dono a fronte di un corrispettivo invece monetario. Il corrispettivo monetario, lo ricordo, anche la fecondazione assistita ai donatori e donatrici, che era possibile solo all'estero prima della Corte Costituzionale, è dovuto, perché in quel caso bisogna fare stimolazioni ormonali, eccetera, eccetera. e questo è un argomento polemico. Poi ce ne sono altri, come vedremo, ma li trattiamo più avanti, perché intanto lei ha spiegato in termini generali ed incardinato soprattutto sulla libertà, naturalmente no all'abuso, no allo sfruttamento, però c'è una questione di libertà, perché dire no di fronte a una libera scelta. Allora, professoressa Emma Fattorini, perché lei invece dice no, il divieto mi convince? No. Allora, no, sorrido perché questi temi così implicati, lo sappiamo, abbiamo già discusso nelle nostre anche lunghe vite, e noi, mi ricordo la discussione con te sulla legge 40 e trovo la sensibilità su questi temi. No, sorrido un po' così amaramente perché questi temi non dividono destra e sinistra, ed è un sciocco dire questo, non dividono laici e cattolici. Perché sono trasversalissimi, toccano punti complicati, però la certezza, la sicurezza, adesso non voglio essere assolutamente offensiva, ma quasi la sicumera di questa premessa che ho sentito dalla Lalli mi faceva pensare che forse l'unica vera differenza che divide su questi temi è generazionale. Io non so quanti anni abbia Lali, ma mi sembra giovane perché chiediamoglielo subito, Chiara Lali, lo so che non dovrei chiederlo, ma in che ordine di grandezza siamo? Chiara Lalli, anni, e quindi non credo che la mia età c'entri nulla, la questione analisi razionale degli argomenti. Perdoni la domanda che ho fatto io. Allora, era una battuta per dire no, è che invidio le sue certezze, ecco, siccome questo è appunto un tema così molto complicato, controverso, io non contrappongo appunto libertà a divieto. Questo è un punto molto vero, delicato, quello che diceva lei, ma di quelli che ha sollevato è quello più che condivido anch'io, cioè difficile. Io poi adesso faccio questa cosa legislativa, per cui vedo la difficoltà, l'abbiamo sempre detto anche su altri temi bioetici, la difficoltà a legiferare su questi temi e nella fattispecie, in questo caso degli uteri, a trovare una legge che lo divieti a livello mondiale, cioè c'è qualcosa di anche praticamente impossibile. E poi comunque c'è questo tema vero, questo tema della libertà è un problema verissimo, e di distinguere tra i paesi, in cui questa cosa è devastante, non è affatto una scelta libera, e questo io penso che vada stigmatizzato ancora di più. Quindi c'è un problema pratico, c'è un problema di denaro, c'è un problema di liberismo, di mercato, di corpo, tutto questo. E quindi questo va tenuto presente, così come appunto una soluzione proibizionista secca così è un problema che va accolto. Quello che invece mi sembra appunto poco problematizzato è questo tema della libertà. Noi adesso era una cosa di non voglio offendere, era un fatto di simpatia, di dire l'età, perché che io mi sono una vecchia che ha fatto, io non ho capito una cosa, Emma, perché lei dice generazionale? Ecco, non ho capito perché vedo che nelle giovani, adesso appunto non voglio toccare visto che c'è sensibilità, no, dico in tantissime altre occasioni di dibattito su questi temi, vedo che l'unica differenza che c'è, cioè di distinzione delle posizioni, è che le giovani sono molto più sensibili a questo tema della libertà, dell'autonomia, e quindi ha una disinvoltura maggiore nell'uso delle tecniche riproduttive, cioè delle tecniche applicate al corpo per quanto riguarda la riproduzione e la maternità. Noi tendiamo a essere più in generale, poi ci sono molte differenze anche tra noi, tra noi femministe, tra noi anche cattolici, perché io poi tra l'altro incarno tutti e due i ruoli, quindi penso un po' che capezza. Cioè il fatto che ci sono chi pensa più alla proibizione, ci sono molte sfumature nei vari schieramenti. L'unica cosa in cui vedo che c'è una, se si potesse fare una, era un accenno, adesso voglio andare avanti, insomma non è, sì, è questo dell'età, perché nelle giovani c'è questa maggiore disinvoltura, c'è un'onnipotenza del corpo, c'è un approccio più disincantato su questi temi. Noi abbiamo una concezione un po' diversa del tema della libertà, noi che abbiamo combattuto esattamente per questo, io ho fatto tutte le battaglie sul divorzio, ma sull'aborto, l'aborto è un'altra cosa, è questo che viene, questo uso che viene fatto, beh anche lì c'era l'utero in minore gestito, no, non è vero, qui c'è un discorso impositivo, lì c'è un fatto di depenalizzazione, anche allora c'era una distinzione un po' tra di noi, tra chi pensava fosse un diritto e chi pensava fosse una necessità che andava depenalizzata assolutamente, qui che fosse la libera scelta della donna ma che non fosse un trionfo, qui c'è un altro concetto, tutta un'altra visione che riguarda, arrivo al punto che volevo dire, qui era tutto solo una premessona, cioè questo nesso tra libertà e limite. E la concezione della maternità e della gravidanza. Qui non c'è la questione della libertà, c'è un fatto, e per questo che il proibizionismo è un problema, però il giudizio morale, secondo me, la complessità, la difficoltà di legiferare, non può inficiare la necessità di un giudizio, che come donne, come intellettuali, come donne impegnate, ognuno nel proprio campo professionale esistenziale, secondo me è tenuto a dare. Capito? Io ripeto, ci sono mille sfumature tra di noi, però il fatto che lì si tocca un punto fondamentale del senso del limite e del fatto che desiderare un figlio, come diciamo in tanti, se questo non è un diritto, come non era un diritto negare, come un diritto ucciderlo, come non è un diritto scegliere di abortire, è una possibilità che si deve assolutamente garantire dal punto di vista legislativo, ma è proprio una concezione diversa, così come forse diversa, penso anche per cultura, ma insisto anche per questa distinzione di generazione, ma sono tanti studi che lo dicono, non è un'impressione estemporanea, no? Ci sono giovani che vogliono congelare l'ovulo perché tra i tempi di programmazione della propria carriera. Ecco, c'è una visione della maternità diversa. Per noi è stata una grande conquista arrivare a un'autonomia su questi temi, sapendo però che la maternità è questo rapporto complicatissimo con la gravidanza, col bambino. Però in teoria, Fattorini, se ci fosse questo aspetto, che io non sottovaluto, anche quello, diciamo così, generazionale, in una linea evolutiva piuttosto che di continuità fedeltà, ci sta perfettamente. Perché, però io credo che ci debbano essere, soprattutto tra le donne, ci sono sempre state, questo mi allarma, dei patti generazionali. Cioè rottamare in questo caso è una devastazione. Allora, io intanto... No, soprattutto da ambiti come il nostro, che hanno fatto esattamente queste battaglie di libertà. Ok, allora io ho capito, lei dice... Il tema, cioè noi dalla libertà siamo passati all'importanza di capire il limite. Ok, allora, questo è chiarissimo. Lei di fronte a Chiara Lalli, che ci ha parlato appunto innanzitutto di libertà, quindi no all'approccio paternalistico, lei dice sì, ma perché qui c'è un problema di limite. Adesso ripartiamo dopo il minuto di informazione stradale con Chiara Lalli, che risponde dal suo punto di vista perché secondo lei non è così, immagino, fondamentale, oppure no, comunque lo sentiremo, il problema del limite rispetto alla libertà, tra un minuto. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:49, primi 7 secondi, vedo che ci sono anche telefonate, ma intanto facciamo un secondo giro di opinioni tra i nostri ospiti. Stiamo parlando della gestazione per altri, alias volgarmente, almeno dal mio punto di vista, almeno piace l'espressione utero in affitto, dibattito arroventandosi in questi giorni. Una parte del mondo femminista dice no, in realtà bisognerebbe dire no, un'altra parte è sorta, comunque ha replicato molto duramente, dice no, ma neanche per idea. Chiara Lalli ci ha detto è una questione di libertà e quindi io dico no a questo divieto, essendo chiaro che siamo contro lo sfruttamento, contro le reti criminali che sfruttano queste cose nei paesi poveri e così via, però c'è una questione di libertà. Emma Fattorini ha detto beh, noi ci siamo tutte battute per la libertà, ma c'è un problema di limite. Cosa risponde Chiara Lalli a questa questione del limite? Limite a chi lo deve mettere? Qualcun altro al posto mio? Di nuovo, a me nessuno ha risposto alla domanda che ho fatto, cioè se volessi io portare avanti la gravidanza per qualcun altro, chi me lo deve dare il limite? Posso decidere io perché il corpo è il mio e le scelte sono mie se riguardano alcune aree, oppure c'è qualcun altro che mi deve venire a dire come vivere, come scegliere? Perché anche qui, intanto... In genere la certezza è di chi vuole vietare e restringere, non di chi cerca di suggerire la libertà, perché la libertà è quasi un recinto, un dominio formale dentro al quale ognuno di noi può poi fare delle scelte di contenuto e di sostanza, no? Ognuno di noi è diverso, se anche noi tre o immaginiamo cosa accadrebbe se allarghiamo la domanda, se ci facciamo delle domande sulle nostre vite, sulle nostre preferenze, verrebbero fuori un sacco di diversità. Quindi per me la scelta migliore su qualunque circostanza è quella più liberale possibile, più liberale e anche libertaria possibile, perché poi ogni persona può scegliere. Io credo, viene purtroppo anche a me da sorridere, io no? Istintivamente la penso come lei, ma comunque conta zero. Emma Fattorini ha richiamato la sua idea di limite, cito testualmente, spero di non interpretare male, ha richiamato l'idea di morale, perché dice noi in realtà ci siamo battuti per la libertà rispetto alla negazione dell'aborto, la depenalizzazione, però nel tempo non è che abbiamo dimenticato che la gestazione, la maternità è una questione di fondo così intricata che è ben diversa dalla depenalizzazione, quindi in negativo per... Beh, ma innanzitutto chiedo scusa, ma per depenalizzare anche qui staremmo parlando di qualcosa del genere, perché non è che la maternità surrogata è nata vietata nell'universo, cioè qualcuno ha fatto una legge in alcuni paesi o ha preso delle decisioni che hanno vietato, quindi il percorso eventualmente potrebbe essere esattamente quello accaduto sull'aborto, se vogliamo fare un discorso un po' remissivo per cui non possiamo parlare di diritti. A me va anche bene non parlare di diritto, perché appunto mi basta parlare di libertà e mi basta chiedere delle ragioni abbastanza forti per vietare, perché questo è un altro problema gravissimo. Anche se qualcuno riuscisse a dimostrare che la maternità surrogata è immorale, e anche qui dovremmo parlarne, ciò non basterebbe a sostenere una coercizione legale. Perché la legge, quando una legge entra e vieta a tutti i cittadini di fare delle scelte, è una decisione pesantissima. Sì, lo è, come sempre tutte queste decisioni su questi terreni molto, molto, insomma, implicano appunto, quando Emma Fattorini mi richiama un giudizio morale, a me mette in crisi, proprio perché io penso che sulla maternità io ho meno titolo per parlare di qualunque donna, però questa è un'opinione mia. Ma io non credo, perché le opinioni non sono, diceva anche Fattorini prima, non sono di destra né di sinistra, le opinioni non hanno neanche consesso, le opinioni sono buone o sbagliate, sono coerenti. E secondo lei quindi questa è sbagliata? Emma Fattorini, No, io credo che il suo contributo può essere assolutamente paragonabile a quello di una donna. Cioè non mi riferivo, perdoni, sicuri, certo. Io non mi metto in questione, penso di me che sbaglio mille volte, ma il problema è che secondo lei quindi la categoria tra virgolette morale comunque ha una risposta nel fatto, beh, comunque però è un divieto che non tiene conto delle posizioni individuali, è questo. Ma io ho fatto però una premessa concettiva, sì, perché per me non si è ancora dimostrato che sia immorale sfruttamento, quindi per me non c'è un problema né di immoralità né di giustificazione della coercizione legale. Ok, Emma Fattorini, come sente questa è la risposta? Cosa controdeduce? No, andiamo a questo punto, che questo è molto giusto, circoscritto. Allora, sul proibire io condivido le difficoltà. Penso però che potremmo accordarci o non accordarci sul terreno precedente, è una cosa morale o immorale, perché vede, questa concezione allargata e dilatata della libertà a cui noi tutti siamo debitori e assolutamente su questo io non ho, soprattutto su questi temi come dicevo, e però lì c'è proprio il punto vero, perché quando tocchiamo questioni che riguardano anche la vita degli altri, soprattutto dei più deboli, degli indifesi, e noi sosteniamo che il bambino che non è ancora nato ha una relazione intrauterina fortissima e quindi è una questione relazionale, non è un fatto di libertà di scelta della donna solo, per quello anche l'aborto non è diritto e basta. Ecco, qui si tocca un problema etico, infatti si chiama bioetico, questi temi hanno questo statuto bioetico, quindi un problema etico c'è, non possiamo risolvere tutto con la libertà, perché come il desiderio non è diritto, così tutto quello che si può fare dalle tecniche o che tutto sarebbe bello fare per la libertà non è detto che sia giusto fare. Poi che sia difficile legiferare, e lì ci possiamo litigare, dividere e pensare, ma che ci sia un terreno ma questo lo capisco. Questo. Io tutto sono spaccato a metà. Negare quello che, cioè una relazione intrauterina profondissima che ha degli effetti non solo come sappiamo tutti psicologi sulla vita successiva, ma anche a livello di neuroscienze. Io sono spaccato a metà esattamente da quello che dici, perché da una parte sono istintivamente la penso come Chiara, dall'altra come uomo, quando è chiaro che uno vede nella macchinetta, come è successo con la mia compagna, la madre di mio figlio, mia moglie, il rapporto che c'è tra insomma l'esserino in sviluppo e la mamma, io come maschio dico, io non vorrei fare il legislatore su questo, anche se istintivamente la penso come Chiara Lalli. Noi non abbiamo il tempo per le vostre telefonate, non abbiamo spaccato il capello in quattro, qui il problema non è sì, no, è semplicemente contribuire con una riflessione a più voci a stimolarvi, cari ascoltatori, non c'è la pretesa di darvi verità, però di interrogarsi profondamente, perché stiamo parlando di una cosa di fondo, stiamo parlando della vita, stiamo parlando di scelte sulle quali il legislatore rischia di commettere errori. Continuate su Radio 24, appuntamento alle 8:15 domani mattina.